cantante romantico, in realtà non c'aveva una CBS, che però era una scapsa, la messa male e così. Lui ha detto che se la cornice tutti è riuscito a fare fretta, adesso si fa l'impianto interno, si busca il corso, lo schema, e si fa tutto lui. C'ha le capsule, c'ha tutto quanto, c'ha addirittura due o tre capsule di tavola più tre. E la ricomincia a bilanciare in chissà, addirittura perché il bilanciatrice è preservato in uguale, dopo di questo visto il pari mai. Ma gran presa, a me. Thank you. tu pensa che il 150 una volta abbiamo messo sul cavalletto, non era accorto che c'era un fosso. E ho messo una parte del cavalletto sul fosso. Come io sono andato a mollare, la moto mi si è farata, l'ho tenuta sino all'ultimo, l'ho appoggiata appena appena in terra. Poi no, poi sono riuscito, non riuscivo a sollevarla, ho dovuto venire un uomo a aiutarla, perché se no non ce la facevo solo. Una volta mi ha sceso addosso, sono andato a rifornire io con la col chimico 500. A presa niente, comincia a gruppo sul cavalletto laterale, no? Ho messo appena fuori a venire la moto, già messo l'acqua, già messo la giù per venire il buono della ventina. Però quando ha cucato la moto e messo la debussa, perché non avevo messo il cavalletto laterale, ha bisogno mia, ruia. Ma me l'ha dovuto aiutare, la vita non ce la faceva. O l'ho presa male io, non lo so, però era pesante un bel, è molto molto pesante. Non fanno, quando si che ce le hai sotto, che accedi, che cammini, non ti la vedi nemmeno, ma se ti si hanno chiuso sotto la moto. Ma te ti corri nel vento, ma guardare più in là, se riesci a vedere ti prendi un T-Max, ti prendi. Ma guarda, il T-Max ti posso dire una cosa, ma dopo, beh, prima di giugno non consuma molto adesso. Prima sì, ma la marmita consumava, uia. No, io sono soddisfatto della mia tazza d'ombra, è nuova nuova. No, non vedo, quando la devo usare, la uso, se la lascio ferma, non c'è problema, non mi domanda nulla. Certo, l'assicurazione, non devo mangiarla. L'assicurazione devo pagarla annuale, quindi non c'è problemi. È tutto a me pagare, se la voglio usare la uso, se no la lascio. Ma io solitamente la uso anche d'inverno, perché c'è tutta la temperatura che preserva l'inverno, quindi... se mi garbo me la usano anche l'inverno, solo che se c'è la macchina con il camino a gas un po' un problema risolto, quello del consumo, per cui la tengo solo così, per fare qualche giretto. Vabbè, già va calma, già va bene così. Chi c'è qua? Chi c'è rimasto? Claudio, ripeti. Eccomi, sono qua. Grande quanto la moto che c'è qui tu, e quel copertone ancora più largo di quello. piatta, capito? Le ho dato con l'antenna e adesso se ne stava rientrando, doveva andare con il filo, tutto quanto, capito? Niente, io lo stavo cercando lì che sta rientrando al QTH dell'amico lì a piazzare l'antenna, dai. Non so chi è, non si è presentato, si vuole presentare, se no contro la tribù, buono antigiani. Yeah. già fatto, c'è un 35 diviso 2, sono 270 euro all'anno. Normale, noi già abbiamo chiamato per loro, dove ci conto? sono caduto, adesso sceso giù a attaccare quel cacchio di contattore che ogni volta che attacca il fornello ti come amo il fa la pizza. Il sistema attaccava e si stacca. Ma come ho fatto io già così mi scendi giù? Sono la vita, mi c'è il contattore, mi va a cercare il recessivo, salta solo la vita, il contattore no, mi c'è bisogno che scenda a solo l'ora. Poi alla fine che c'era così, mi sono sconciato, ho chiamato il recessivo, ho fatto mettere solo la vita sul carico del contattore. Anche che scende giù a attaccare il contattore, mi scatta solo la vita delle prese. Ma io il salvavita ce l'ho a casa, da quando ho comprato l'appartamento era già predisposto lo salvavita, solo che stacca giù, non stacca su. Su stacca solo se c'è un corto, allora si stacca, per dire sbagli mettendo un filo, fa pa, e si stacca. Io ce l'ho già, ho fatto un piano nuovo, e io gli ho fatto mettere un salvavita a parte sul carico solo del contattore, in modo che quando c'è sovraccarico di presa, perché il fornello elettrico deve attaccare la presa elettrica, quindi non la caricare sul contattore, perché i contattori sono digitali, non hanno grande forza di tensione, la scattano, capite? Invece di scattare giù il contattore, ti scrive salvavita che è a presa diretta sul contattore. E ti evita di fare le scale, capito? Come ho fatto io. Vabbè, dai. Ho preso l'ascensore. Capo a casa. Allora, lei in mano non serve un capo. Perché basta che attacchi. Lo scaldo c'è, lo scaldo a bene c'è per attaccare. Attacchi il forno. Io c'è il baracchino, Manuela c'è lo sbarco. Computer e si è staccato. Vedi, quelle lampadine che ho comprato io. Abbiamo 7,50 euro, ma normali, sono belle, normali, rotonde, senza quelle spiralate su gruppo, e sono da 9 watt. Quando tu le accendi sono gialle, poi man mano diventano bianche, bianche, fanno un sacco luce, poco assorbimento, ne ho messo tutte quelle, devo comprarne altre due perché ci vuole un capitale. Devo comprare altre due del salone, però siccome il salone ci sono sempre le lampade accese, e quindi ci sono quelli. Occupata supermercato, 7,51 da 9 watt, e fanno luce per 75, quasi 100 watt, ma sono da 9 watt di consumo. Anche io le ho cambiate tutte, non le ho pagate manco una lira. Sono andato a piazzare i segni, quando buttano la plastica, le porti la plastica, quando buttano il vetro, le porti il vetro, e loro in base a quello che porti ti danno le lampadine a basso consumo. E non è male. Ho sentito questa cosa, mi sono sempre dimenticato, se le butti le trappe e ci butto io. Perché la butta già pronta, cioè ogni mattina ci butto le butti le trappe. E le metto io mi sono la bottiglia di luglio, così. È molto pratica, mia mamma è troppo pratica. Ha detto buttava lì nelle contenitore da pratica, me la mette a miraggi. E hanno venuto a pensare ci mi va, vedi il porto, mi mettono un po' di lampadini. Ecco, sono marca i soldi già. La domenica c'è, la domenica. Però non so se ci sia tutte le domeniche, quando c'è io, le volte che sono andato lo vedo sul giornale, che c'era. E poi diciamo che sono così utili. O ti davo ancora, o ti davo un buon pasto da spendere per fare la spesa, o... Ma io ho preso le lampadine, se me la fottiamo via. No, già, lampadine. Ho detto proprio, ma che è semplice, infatti non ce l'hanno adesso. Ma come ho invece di buttare le metti per porti in garage, se per la settimana dovevi che la macchina ti carichi la macchina, ma consumiamo parecchie noi, consumiamo parecchie, almeno due bottiglie al giorno, alla grande, non fa quello che io devo opere, conosce il vetro, conosce la plastica, capito? La rogna è quella lì. Tu devi sapere quando c'è dove diciamo della plastica, allora li porti l'acqua, perché se tu li porti il vetro, quando c'è la plastica non te la accettano, capito? Ah, è perché c'è un comprato soli, che vengono 12.000 per 4, quanto è il consumo? Un EFRA lo sai meglio di me, se tu in quel settore io come parte elettrica non è che ne seguo molto, però bisogna vedere perché se quella della Toshiba che c'ha lei, le chiamarice sono normali, cioè non hanno l'inverditore di calore, nel senso che quando arriva la temperatura si attacca al sole e voi non siete attaccate per ore, il consumo più elevato di inverter. Dipende come i figli, come le lavatrici, alla famiglia, dipende che classe è, se sono di vecchia classe, quindi la B e la C consumo più elevato, se sono di classe A consumo è minore, io le comprate cose fatte, lo so, le ho messe perché fatte su 12.000 della SASAI, come pare se non sono ricordo. Comunque sono 12.000 e sono tutte due volte, l'ultima generazione classe A, e ti dico il mio consumo a bolletta, contattato proprio al consumo perché non lo segue, si segna i kilowatt di partenza per quelli finali, e sono intorno alle 50 euro, 55 euro nelle mesi, quindi alla fin fine conviene sempre a voi le pompe di calore, che la stufa o la stufa bomba e altre cose, capito? Ma lei c'ha la pompa di calore con le vecchie generazioni, secondo me. Ma se vuoi tornare, lui c'è poco fa, che sono sceso il giorno delle sigarette, stavamo parlando. Ma se vuoi per carità, non è cercato il tutto, quindi, ma per me valeva la bolletta di 2 mesi e 380 euro di luce. Ogni 2 mesi, dalle 3.90 alle 3.60. No, non esiste. Gianni, cosa hai detto che era detto assieme a Franco? Detto che io me l'ho messo da 12.000 BTU, però l'ho messo doppia classe A, lo uso solo per il fresco, perché il caldo io lo sempre messo male, insomma, a petto nudo e con il caldo del pigiama. Penso che poi a petto ranura con il riscaldamento. Diciamo che io ne ho messo uno solo, per la sala che è grande e mi rinfresca la cucina, la sala e parte della camera da letto. Yeah. sento io, però con la radio che da qui mesi per due. Ci posso anche credere già, niente di da dubitare, capito? Ci posso anche credere. No, ci devi credere. Io niente, Claudio lo so come tengo gli apparecchi. Quella radio lì costa 460, 460 euro, ma sto vedendo 300 euro, a te te la do 300 euro, e un altro magari no, però c'è tutto, non hai bisogno di andare a bancarare, la camera, ecco, c'ha tutto, luci blu, tutto grande. Gappa, gappa. E la peggiante, la sirena. E soprattutto non è una Lamborghini, è un S9 della Magnum, che è un apparecchio americano. Ah, già, non hai detto le luci blu, le luci lampeggianti, la sirena. Il baracchino più completo che americano che ci sia mai stato in commercio. Ce ne sono altri che possono avere quello, cioè superare i 7.000, che però è fatto di costante, quindi non ha caratteristiche di quello che c'è già incorporato, capito? L'elco, superfaccia solo potenza, regolabile e basta. E poi digitale, quindi analogico, molto più. Mi piace molto. Grande radio, forte, grande radio. Se lo dici, vai alla casseria e fai conto a cemento, tu non pareci. Magari. fa una spesa, quella 13, una 12, 300 euro, ma già so, ma... lo so, quella, lo so, non so più da 300 euro. Paga là. Lì c'è poco ma sicuro. Bisogna che io faccio candidato per cucciami. Se la cara la pesca senza un livello 250 euro, ogni cosa gli ha visto Gianni. Ehi, apre grido, ci mancherebbe altro. Siamo sul canale 10. ti sentivo da tempo. Va bene. Attento, tu non ti tenghi a troppo niente. Sei un capito! Caretta, mi dico tutto di Roma, quel buco di dietro lo sta vendendo. Se vuoi ora non va. Sopravvivere a quello che è i reality che ti propongono. E trovano lì come riscontra una è bassottina, ma c'è due camere d'aria. Devo visto, lì c'è la morena, ancora. Ma la famo lo per fare. Sì, vabbè, ma io cosa moriti. Ogni tanto hanno escluso anche la medicina dalla visione famosa perché il ministro Gattani ha detto che i galeotti non possono fare televisione, che sono di meglio. Via, via. Ma c'è un articolo che non posso avere neanche tutte le immagini. Ne ha ripetuto i guai al ministro Gattani di giustizia, poi si è presa anche con il direttore della RAI, perché ha fatto le vaccinazioni non volevano fare. Uno è tra di uno. Io credo che, non perché sono sardo e difendo i sardi, ma Fiammini è stato uno dei più grandi banditi del secolo, però credo che abbia pagato, perché 40 anni di carcere, non lo so, qui si era scontato la sua pena, esce libero e quindi ha tutto il diritto di potersi rifare una vita. Giustamente le capitate occasione per poter andare anche lui in televisione a partecipare a questo reale che ci hanno escluso. Oh via! Yeah. Speriamo che non riesca ad uscire il cappello di nuovo. Non ti sono già comprato il barocchino? No, nel senso che si era vendetta facile queste cose. Non voglio aspettare, cioè, un po' di scherzi, non sono cose da sottovalutare molto, perché per me è un grandissimo personaggio, anche perché è stato anni fa alla funzione di tutti, si è fatto appunto di farlo incassare, cioè pare, a quanto dicevano, avesse partecipato a quel rilascio. Però, a prescindere da quello, è sempre un personaggio che può poterla andare tranquillamente a fare questo lavoro, anche perché vanno con i pucci, che sono il più grande fratello, ma si chiama dalla casa del fratello, lo chiama dalla casa dei baragulli. Sono tutto appena travestiti, perché travestiti, gente che c'è una bucatura accesa, c'è pure la battata, gente con la battata, c'è pure un batterino, tutto. Davvero è una porcheria veramente, io non lo sto seguendo perché è veramente una porcheria veramente, guarda. Adesso quello con la barbetta l'ha detto che era donna. È un uomo, ma che ora c'è quella patata, cioè come fa lui, come fa, ha dichiarato in televisione che non è uomo a tutti gli effetti, quindi anziché in quel viso c'è quella patata, ma come fa non c'è la patata, si è fidanzato con un'altra donna, con due patate, e cosa vuol dire, cilindri? Non c'è problema, va. Vuol dire che fa che cosa di plastica? C'ho quelle cose con l'elastico, che tu lo sei aggiornato, si mettono l'elastico, con il trotto di bici e via. Allora, ci parla di una occhiera. Cazzo di erba. Sì, ma dai, adesso io capisco che ci sono tutte le aspettative del mondo, tutte le cose che possono... Se vanno bene, non andiamo niente in particolare, ma dico, cioè, voi pensate che un reality del genere, che poi reality non si può chiamare, è una cosa dove ci sono in ballo tantissimi quattrini, tantissime agevolazioni, anche se non sembrano, perché tutti i budget che loro hanno in piedi sono tutti dalla Canale 5, e tu fai sì che l'unica questo programma va a partecipare alla presenza che c'è Buso di un problema, guarda qui separato, vabbè, quelle sono cose che possono succedere anche nel migliore famiglia storico, e c'è la terza edizione che io riempio questa casa di gente che tutti ci attendono la mattina per andare a lavorare a portare un po' di pane a casa, per finire di dire che entra nei chili, che tutto sia dovuto, tutto sia facile, Maricio Maregio, ti mando la vita per carità, e io devo mettere il dito nelle orecchie e quando metto una proposta. È tutto per creare audience, Claudio, la gente quando viene praticamente stuzzicata così, saperne di più, quindi guarda sempre il televisore. Diversamente se non c'è qualche cosa che l'attrae, magari sorvola di andare a vederlo, perché tanto l'hanno fatto tante volte, quindi trovano sempre il metodo per attirare lo spettatore, il telespettatore, ad andare a vedere quel canale lì, capito? E tu dici, magari sono anche pagati per dire sì così, il nostro nome è vero. Può essere, sono d'accordo con te, però il fatto che con la volta di che invece lascia pure quelli che ti si è fatto il seno, una cosa normalissima. Ma dico quello che da donna passato uomo e va bene lo stesso, io non è che ce l'ho con queste persone. Ma che il padre va a scoprire che c'è un figlio vecchio che ha come scoprire in televisione. Non lo sapeva il padre, ma di quale? Di quello che era donna? No, di Michael, di su Bucchi Mascio, di Sigato a Reggi, dopo la mano, ma quanti anni ancora? Non mi vedi sicuramente, Borne è categoria occupato, ma perché il cattivo genitore può scoprire, guardare la televisione e scoprire che si fa la buca. Quando mai va via Rubaraucci rubava? Già si vede, si intende che io, anche se non me l'avessi detto, avrei capito subito. Si intende da lontano. Così le prime dichiarazioni che ha fatto il padre sono state, poi l'ultima che ha fatto quando è lunedì, c'è stato prima lo guardo, non stavo dicendo, ma dice che appunto hanno fatto incontrare telefonicamente il padre con figlio, e ha detto c'è stato per me l'unico figlio, l'ha detto sono orgoglioso di te, anche se sei così, pazienza, però c'è sempre mio figlio che era anche tu e parlare. Vabbè, che la concuta, che la conclusa. Cambina la rubù e che non vira rubù. Vabbè, comunque non, io non lo guardo mai, perché guardo le dimensioni, che era una cosa un po' da breve, diciamo, una cosa nuova, poi me ne è sceso, perché un po' così, proviamo un po' fatto di gente che ha solo problemi, agevano quelli che hanno problemi, invece l'altro problemi non ha. Vabbè, facciamo girare, vai qualche. Ui, passa a dare. Ma avevo finito così, mi dice molto, ma passò. Perché avevo finito a Monti? È minimo. Ma la domanda è questa. Gesù Cristo ti guarda e capita. La natura te la guarda e capita. Ma che ce lo fai, capita? Tu ti vuoi femmina, capita. Ma se chi tu della femmina è bruloso e si può maschio, ma è una cosa assurda veramente. E da poi cosa fatemi? Dimmi tu cosa fate e fai tu sì. No, quello che mi chiedo io, anche una volta trasformati. Ma si può dire goderanno o no? Sì, poi io penso sia una cosa negativa. Sì, sì, vabbè, va bene il culo. Io penso che non provino nulla, sessualmente non provano nulla, è proprio qualcosa di avere quello che hanno desiderato loro mentalmente, però a livello di goduria non ne hanno. Penso che non provino nulla, non abbiano stimoli né niente. Non so, già non mi trovo. Comunque c'è un altro lì, ma l'altro che aveva fratello, erano due. Quello della donna che ci ha fatto tutto quanto, che ha fatto l'uomo. E quello dell'uomo si può trasformare in donna. Infatti io li avrei messi insieme e basta. Sessuali. Sì. Non è un amico transessuale. c'era anche i soldini per farlo. Quello adesso, lo sai cosa li mettono? Io ho visto un intervento proprio, l'ho fatto vedere, li mettono il caucciù addirittura. Voi fate dei ragazzi per pigliare il bisogno. Degli interventi che operano lì al pene, capito? E li mettono il caucciù e rimane sempre quella la giunta dritta, no? può scoppiare, lo può, oltre le macchine lo può mettere, ma me l'ha chiesto la mamma mia, una cena lì. Poi chi ha urlato come ti brincato. Faccio quei mini o quelli massimi. Ah, di quelli piccolini, di quelli che scoppiettano e basta. Ma non so di ragno, no, dice lui. Per visto. Non è mai visto, è mai visto. Ciao, ciao. Ciao, ma guarda, attraviamo ancora di qua, sono attaccato con la bestia, luce. Ciao, ascolto domani, alle prossime. Ciao a tutti, buonanotte e anche a quelli che sono in ascolto. Ciao, ciao. Ma non fate male, mi bianco che siete qualcuno e sta chiamandolo. Oh. E ciao, è passato la buonanotte. Ciao, ciao, alle prossime. Dai, mamma, è non lì. E qualcuno che sta chiamando da poco fa sottofondo. Avanti, chi chiama? Attenzione, canale 10, 27075, se c'è qualcuno che fa chiamata poco fa, guarda. Nei capi 2, tu sei? No, raga, ti vuoi permettere? Io l'ho sentito comunque che ha salutato. Cappa. Vabbè, vabbè. Che ti muti? Il sonnetto. Baraguicola, voci due. No, Baraguicola è come fantasma. Tra cui scappa. Quale retinia? No, adesso mi spiegherò se sta facendo uscita. Mi sa che si è fatto la tua fidanzata. Sarà lì da Corso, da Serafino. Quello che cibi, che vede formaggi, che si è fatto la ragazza. Che c'ha un 140 macchina. Se la fino aveva 140 macchina. Poi poco si scende l'asso. Ma tu sei parati. Su che passo è stato il mamma. È strano, eh? Verso le montagne. Ah, io non, a me non mi prende mai da uscire. No, si intende, no. Si dice mettere a me barra di ritorno. Io non salgo a uscire e poi mi dice mi perdi. Ah, negativo, no, lì già prendi, lì prendi tutto, Sì, ma poi scendendo cose, non perdo nessuno, io parlavo con Mario Mao, ma l'ultima volta che sono andato mi ha accompagnato da su, si immagina. Ah, cappa cappa. Potenza sotto. Potenza ci vuole. Allora, se no lui si può capire. Ma lui ce l'ha la potenza, ma no, secondo me... Non hai fatto bene l'impianto, butta. Avanti capri due. No, sono già di doppio lucro, ce l'ho nominato io. Ho detto capri due, sì, perché sapevo che dovevi entrare. E magari con i passaggi veloci... c'è un sacco di gente, se magari lo compro. Thank you. voglio dell'altro. È di lusso, di lusso. Vabbè, stiamo migliorando. Abba, capa che ti ascolto, forte e chiaro. Se non l'estate poi non ce la fai, ma conviene farlo subito, decidersi a farlo. Prima lo ascoltavo per me. altro nuovo. Me l'ha detto Marco, spaccami la testa, non me lo ricordo come si chiama. Comunque lavora Alghero e abita a Sassari, se l'ha messo in macchina per fare compagnia e noi siamo obbediti di sentirlo. Comunque già le caratteristiche che dicevo io, il radiale è vetrolesina, vero? Il connettore come la manto, guarda, angolare. Sì, sì, anche non è male però, ecco. 5 libri di guadagno non è male. No, no, la Sigma. Sì, sì, no, ma anche la GP serie, guarda. 46 euro costo. Per quella mi avrei preso l'antenna buona, dai. Vabbè, comunque. Ti stavo dicendo, per pacco un caso ce la passa, è stato fatto il radiere al tetto, ma è vero, deve alzare. Sono riuscito a tenerlo fuori. Sì, ma ma non l'hanno ancora alzata l'antenna, perché quello che sta facendo qua, spocca il muro, infatti sono uscito nemmeno con l'antenna così. La rovini, E in realtà che si dice se la lasciare. Beh. Ecco già. Ma secondo me si dà andata pure quello. È buona. Secondo me arriva ancora più bene di prima. Raga, io mi sto domandando, buonanotte a tutti. Io faccio un fotosporto, poi faccio quello di ciao. Ciao, buonanotte, ciao. Ce la risolviamo le prossime. Buonanotte. E tu, io ti saluto, dai. Ce la risolviamo le prossime, anch'io devo stare presto, dai. Tutte le prossime. Ciao Antonio, ciao Pierpaolo, ciao Gianni e ciao a tutti gli ascoltatori. Ciao. Che bello, driver. Se non mi senti? Ah, cappa. Io tanto, già lo credo tu, anche tu già avrai lavorato anche oggi. Io già l'ho fatto. Non abbiamo fatto molto oggi. Oggi è un pochettino di pausa. Ma domani non lo so così. Sa così. Meglio che ci sia lavoro tu. Meglio che ci sia. Meglio che ci sia lavoro. Guai se non ci fosse lavoro. No, perché di tutto il passaggio che non ho capito. Beh. Detto guai se non ci fosse lavoro. Non lo so. Siamo qua. Va bene così. Ok, allora, due reti da parte mia. Ce la ascoltiamo dalle prossime. Buonanotte. Ci sentiamo alle prossime. Ciao, buonanotte. Vabbè, ma che dai. Io sono chiuso. Allora, buonanotte, ci sentiamo domani o alle prossime. Ciao. Ciao a tutti, passa una buona notte anche tu, dai, tutte le prossime. Ciao.